Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Noi ripartiamo invece, l'Europa riparte dai 300 sopravvissuti del campo di sterminio nazista di Auschwitz, oggi sul luogo di uno dei peggiori orrori della storia dell'umanità in occasione della giornata della memoria, per lanciare in questo 70° anniversario un monito contro il ripetersi di tale crimine. Auschwitz grida di dolore, di una sofferenza immane, invoca un futuro di rispetto, pace e incontro tra i popoli, così il Twitter di Papa Francesco. In realtà a poche centinaia di chilometri più a est la crisi dell'Ucraina continua ad aggravarsi. Intanto l'Unione Europea ha annunciato che valuterà il possibile varo di nuove sanzioni contro la Russia a causa appunto delle responsabilità di Mosca nel deterioramento della situazione nel Donbass. Confermato dunque la riunione d'emergenza dei ministri degli esteri europei giovedì prossimo, con l'impegno di valutare la situazione e prevedere qualsiasi azione venga ritenuta appropriata. In particolare, ovviamente, si discuterà della possibilità di nuove sanzioni. E ora parliamo invece della Grecia, dunque l'indomani, insomma il lungo indomani del voto greco. Vedremo cosa dirà il nuovo governo, così Pier Carlo Padoan risponde agli interrogativi, insomma, sulle prossime mosse di Atene e ovviamente dell'Unione Europea. Ci sono già una serie di appuntamenti, una serie di incontri. Allora sentiamo intanto il servizio di Valentina Furlanetto. L'uomo che con più vigore ha bacchettato la Grecia negli ultimi giorni di vigilia elettorale oggi apre uno spiraglio. Il ministro dell'economia tedesco Wolfgang Schäuble al Parlamento europeo ha detto che la flessibilità di per sé non è negativa, ma non deve portare a una situazione in cui le regole convenute non vanno rispettate. Una stilettata comunque ad Atene non se l'è risparmiata. I greci, ha aggiunto, soffrono non per le decisioni di Berlino e Bruxelles, ma per il fallimento delle loro elite politiche degli ultimi decenni. A fianco a lui il ministro dell'economia italiano Pier Carlo Padoan, il quale ci tiene a precisare che l'Italia è diversa da quella che viene rappresentata. I know that there is a perception that a country like Italy is breaching the rules. Well, please look at the numbers. It's not the case. C'è la percezione, ha detto, che l'Italia violi le norme, ma guardate bene i numeri, perché non è così. Nonostante il debito elevato, ha sottolineato Padoan, stiamo lavorando per alleggerire il peso del debito e perché si mantenga in un percorso di riduzione. Tutto questo mentre il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz dava un'intervista al Corriere della Sera, nella quale faceva la parte del poliziotto buono e dichiarava di fidarsi del senso di responsabilità del nuovo premier greco che incontrerà dopodomani ad Atene. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di ruoli, spetterà a Yannis Varoufakis quello di ministro delle finanze greco. È importante perché di fatto sarà lui a trovarsi al tavolo appunto con la Troica, con il Fondo Monetario, con la Banca Mondiale, insomma con l'Europa, con quegli elementi, con quei rappresentanti che la Grecia ha messo sotto accusa pesantemente nel corso degli ultimi mesi, che hanno portato anche al successo di Syriza. Dunque Varoufakis, piccola nota sul suo profilo: fino a 2 settimane fa era docente di economia internazionale all'Università del Texas a Austin, dove ha stretto un sodalizio strettissimo con James Galbraith, il figlio del grande John Kenneth, che era stato l'economista di Kennedy. Insomma, una figura da scoprire, avremo modo di farlo senz'altro. A lui, come dicevamo, la responsabilità delle trattative prossime venture sul debito greco. E sono le 14:05:50 e tutto per Europa 24. L'appuntamento con Europa 24 sera stasera alle 21:30. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.